假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天十点二十二点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。 Oh, Adios! Circolo! Coraggiosa! Quel uomo orrendo avea lasciato sul

suoi o per gli amici? Chi lo sa? Grazie! Grazie! Thank you. felici. E non vorrei ascoltarti. Nostro padre contro tutti. Sei innocente, sei davvero. Ridere. Sospendere la festa, un attentato, un corruzione, eccetera.

Thank you. Direttami a mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Son disceso all'albergo d'Inghilterra. Vado a parlar di voi, salgo in biciclo. Diego, ricerco, bravo. Incendio! E poi geloso! cominciava. Suonava troppe fughe. Ginevra. È grave. Perché? Contessa, siete forte. Non cadrete in delirio. Una doccia si trova. Allor, senza riguardi, il maestro polacco, nipote successore di Chopin, il poeta del pianoforte, eccetera. Suspicatevi avanti! Non sarebbe un agente segreto. Una spia! Dall'imperial governo al vostro fianco messa. Per farvi chiacchierò! Fatevi cor contessa, qua giù tutto finisce e tutto ricomincia. Non è la prima volta e l'ultima sarà. L'amore Eugel di Posso se ne viene per andarsene. Un rapimento. Come? In bicicletta. Amo, mi devo leggerò. Uno di stelle. Testolina sventata. Principessa, non son venuto qui per lei. Amate molto. Oh. Deliziosa! Grazie, non mi spino a raggiungermi! Siete così leggera! Non è per noi chilometri di vantaggio! È la posta! Segnò col nome di battesimo,

infame eri tu! E tu uccidesti mia madre e il fratello per vendetta del tuo giovinino, del crudo tuo vile, ed ecco il tuo amore, sirena da forca, spiarmi e tradirmi. Oh, non è bello! Arrendi schiacca, all'odio poesia! Non uccidermi, guarda, è la morte. Però, questa donna, il vero, sa tutto! Thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Salgo in slitta per atto ritorno, a mezzo alla via, discesa dall'uscio del nobile amico, rapiso la fante di panda, l'insepo, la donna vacilla, malletta, confessa, di manda un biglietto recuabile di mio. Io salvo, e gli uscito, il servo mi lascia un istante. Io corro il diretto e trovo... Sentenzale! Che dice? Ti attendo stasera alle 9. Lo dimero, ecco la prova, leggi.